Io sono di Castelfidardo, bravo, bravissimo, provincia di Ancona, dove si fanno le fisarmoniche ancora. Perché secondo lei, io, Maurizio, di dove sono? Buongiorno, siete stupende tutte e due. Grazie, Mirella. Mi fate tanta compagnia, sono della città di Debora. Insomma, ti faccio la rima? Cara la mia Deborina, sentiamo. Sarebbe magra senza farina la nostra cucina. Non devo pensare più a nulla, devo solo dormire. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Certo che i soldi ci sono, il punto è dove si mettono. Sono anni che la politica allarga il proprio raggio d'azione e i cittadini pagano. Ora noi stiamo semplicemente proponendo un'inversione dove la politica inizia a stringere un po' la cinghia e dove questi soldi tornano ai cittadini. Ci siamo dati una scadenza. Sì. Se il 27 maggio sta roba non arriva, allora vuol dire che Renzi è un buffone. Guardi, signor Presidente del Consiglio, che noi siamo già qua in attesa e a maggio le faremo le pulci, ma gliele faranno soprattutto i lavoratori dipendenti con redditi fino a 1.500 euro netti al mese. Questa è la platea di riferimento. Il bonus invece, che è precisamente uno sconto sulle trattenute di circa 80 euro mensili a partire dalla busta paga di maggio. Insomma, Deborah, ti fanno pagare 80 euro di tasse in meno al mese. Sì. Eccola qui la ricetta di Matteo Renzi, che vuole mettere qualche soldino in più nelle tasche dei lavoratori italiani. I lavoratori ci stanno già scrivendo al 349-238-6666. Ad esempio Lello da Vicenza ci scrive: salve, il mio CUD 2013 è di 23.000 euro, prenderò gli 80 euro mensili? Continuate a chiamarci e a scriverci, ne parleremo con i nostri esperti. Allora, l'operazione complessivamente dovrebbe riguardare almeno 10 milioni di persone, vale a dire la metà dei lavoratori dipendenti e degli assimilati, a partire dai collaboratori coordinati a progetto attivi in Italia. Il taglio del cuneo fiscale in questa prima battuta varrebbe 10 miliardi di euro a regime, quindi nel 2014 sono 6 miliardi, perché interesserà praticamente 8 buste paga in tutto l'anno e pro quota anche le tredicesime. E fuori dalla partita restano lavoratori autonomi e pensionati, esattamente come è accaduto pochi mesi fa con il primo intervento sul cuneo fiscale operato dal governo Letta, quello famoso di 14 euro. E questo, lo sai, a me non è che piaccia tanto. No, a te e non solo. Però insomma, l'obiettivo di tutto questo sarebbe rilanciare i consumi interni, una vera gamba zoppa dell'attuale congiuntura italiana, come si suol dire, far girare un po' l'economia, Nicoletta, perché anche di questo abbiamo bisogno. Insomma, il premier dice: un bonus da 80 euro al mese su una busta paga da 1.200 euro si trasformerebbe in un consumo, una gitarella fuori porta, qualche cosa ai figli, una pizzetta, un po' di svaghi, il cinema. Però noi immaginiamo che in molti invece ci pagheranno qualche bolletta arretrata o un pezzetto dell'assicurazione dell'auto, tanto per citare qualcuna delle direzioni che questi soldi potrebbero prendere. 800 24 0024, lo chiediamo anche a voi. Cosa ci farete il 27 maggio con questi 80 euro? Raccontatecelo in diretta con un messaggio, come state già facendo, al 349-238-6666. E intanto il 27 di maggio la prima cosa da fare sarà controllare, una volta che abbiamo preso la busta paga, se questo denaro c'è. Ma possiamo già fare un calcolo, una simulazione di come sarà la busta paga di maggio? Alessandro Rotaporte, nostro consulente del lavoro, lei che ne dice? Intanto buongiorno, qual è il suo parere? Buongiorno. Buongiorno, grazie dell'invito e buongiorno agli ascoltatori. Ma dobbiamo innanzitutto fare subito un po' di chiarezza, perché questo provvedimento, che appunto è stato annunciato in Consiglio dei Ministri dal Presidente Renzi, è ancora appunto a livello di annuncio, quindi è una misura che dovrà trovare spazio in un testo legislativo. Si parla di un decreto legge che dovrebbe essere emanato nelle prossime settimane, quindi possiamo immaginare delle ipotesi sulla base delle indicazioni che stanno uscendo in questi giorni. L'effetto sicuramente dovrebbe essere positivo per le buste paga, ma usiamo il condizionale, perché nel dettaglio, anche se abbiamo appunto alcuni input, non siamo ancora certi finché non leggeremo proprio la misura in una legge. Però però le slide ci sono state, rotta porta, per cui almeno da lì qualche cosina abbiamo potuto vederla. Le chiediamo, adesso Nicoletta intanto sta monitorando i tantissimi messaggi che ci stanno arrivando, che sono veramente partiti a raffica. Sono 80 euro per tutti, da chi prende 900 a chi prende 1400 euro al mese, oppure troveremo questa bella sorpresa, secondo quella che è la sua sensazione, e troveremo appunto questa necessità di individuare una combinazione fra reddito imponibile e IRPEF? Allora, diciamo, partiamo dalla slide. Il governo ha detto 80 euro per chi guadagna 1500 euro netti al mese. Come funziona? Molto probabilmente l'azione sarà sulle detrazioni fiscali, ossia partendo dall'imponibile IRPEF, quindi quell'importo su cui si calcola poi l'aliquota fiscale, quindi la prima aliquota, tanto per chiarirci, è il 23%, quindi fatto questo conteggio dell'imposta, ci sono poi le detrazioni fiscali, che sono quelle che vanno ad abbattere l'imposta, quindi ad abbassare l'imposta. L'effetto dovrebbe essere sulle detrazioni fiscali e precisamente sulle detrazioni per reddito di lavoro dipendente, ossia non quelle detrazioni per i familiari a carico, ma quelle detrazioni appunto legate proprio al reddito, che sono ovviamente inversamente proporzionali al salire del reddito, quindi più il reddito aumenta e più le detrazioni diminuiscono. Cosa dovrebbe succedere? Dovrebbe esserci un doppio aumento, ossia un aumento della detrazione base, che oggi a 1880 euro dovrebbe essere portata a 2004, e quindi questo è il primo effetto, e un secondo effetto attraverso un ampliamento della platea dell'importo, quindi di reddito, che riguarda quella fascia di detrazione, che quindi verrebbe allargato. In sostanza questa detrazione, che sarà aumentata, si esaurirà fino allo scaglione dei 55.000 euro di reddito, quindi dovrebbe essere è un effetto che ovviamente non è uguale per tutti. Quegli 80 euro dovrebbe essere un'indicazione per chi ha un imponibile che si traduce poi in un netto di 1.500, ovviamente al salire del reddito quella detrazione va a scomparire, quindi per i redditi più alti non si vedrà l'effetto, certo, di questo beneficio. Mi pare anche corretto. In ogni caso, appunto, diciamo che tutti questi movimenti, da quello che capisco, non è che poi il lavoratore li vedrà. Sì, ma si verificheranno appunto in busta paga e poi speriamo che se ne veda l'effetto definitivo. Vogliamo dare lettura subito di qualche messaggio? Sì, non strozzarti, tu bevi un po' tu d'acqua, leggi che io bevo. Noi andiamo a sentire Stefano, che ci chiama da Milano all'800240024, che così Stefano dà il tempo a me di andare a pescare i messaggi, che sono davvero tantissimi, e ciascuno ci porta un'indicazione, una domanda da rivolgere ad Alessandro. Sandro Rotaporta. Stefano, buongiorno. Buongiorno. Ecco, innanzitutto complimenti veramente a tutti. Grazie, ci dica. Seconda cosa, allora, io sostanzialmente ho una busta paga con un netto, non mi ricordo l'ordo, dovrebbe essere intorno ai 1700 rotti, e dovrebbe corrispondere a un netto di circa 1200. Sì. Però quasi tutti i mesi, per mia fortuna devo dire, anche perché arrivo da 5 mesi di disoccupazione, sono fortunatamente riuscito a rientrare nel mondo del lavoro a tempo indeterminato, per mia fortuna non quasi tutti i mesi, però buona parte, ho circa netto 500 euro di trasferta, sì, quindi che mi fa lievitare il mio fortunatamente stipendio base da 1200 a 1700. Circa netto. Potrò godere delle famose 80 euro? Allora, Stefano, tra l'altro la ringrazio, perché in tutta la rosa di casi possibili che avevamo immaginato avevamo contemplato anche questo, chi ha uno stipendio base che va al di sotto della cifra che potenzialmente potrebbe beneficiare del bonus, ma con o straordinari, in questo caso per Stefano, fa una trasferta appunto mensile, lo stipendio mensile ogni tanto lievita. Rotta porta, qual è il reddito che si prende in considerazione? Allora, ci sono alcune voci, tra cui la trasferta, che, salvo casi particolari, non entrano nel reddito, quindi la trasferta, salvo quei lavoratori che sono considerati trasfertisti, quindi che ce l'hanno come elemento abituale, non va a imponibile fiscale, quindi non si pagano le tasse sulla trasferta, e a questo punto qui il lavoratore che ci ha appena contattati potrà usufruire dello sconto, perché la trasferta non entra nel reddito. Io avrei pensato invece al contrario. Bravo. A proposito di trasferta, di trasfertisti. Noi andremo, anche noi faremo una trasferta. Questa settimana, esatto. Dove andiamo? Andiamo a Bari, giovedì saremo in diretta da là per la grande operazione di Radio 24 Passione Sud, che settimana scorsa è stata a Napoli, adesso ci trasferiamo in Puglia. Ottimo. E noi non vediamo l'ora. Esatto, perché? Per mangiare un po' di cose buone, naturalmente. Allora, vogliamo rispondere a Leillo, che è stato il primo a mandarci un messaggio. Ribadiamo il messaggio. Allora, dottor Rotaporta dice: il mio CUD 2013 è di 23.000 euro, prenderò gli 80 euro mensili, e questo fa il paio con un altro ascoltatore che non ha ben chiare ancora le due versioni, perché dice, una dice che sono fino a 25.000 euro lordi, l'altra 1.500 euro netti al mese, le proposte non coincidono, qual è quella buona? Così rispondiamo a Leillo e a Tommaso. Rota porta. Ma allora, come dicevo prima, stiamo facendo delle ipotesi sulla base delle indiscrezioni che stanno uscendo dai tecnici che si stanno occupando della questione, quindi stiamo facendo veramente un po' fatica, perché non avendo un testo definitivo è difficile. Comunque, stiamo facendo le nozze coi fichi secchi, come si suol dire in gergo finanziario, non tanto. Ecco. Comunque, in entrambi i casi, soprattutto il primo caso, il caso dei 23.000 euro di imponibile nel CUD, è un caso che sicuramente beneficerà dello sconto. Il netto è stato indicato in quelle famose slide proprio per dare un'indicazione concreta, perché molte volte il lavoratore giustamente guarda l'ultima voce della busta paga, che è il netto, e magari non si rende conto qual è la correlazione con l'imponibile fiscale. Però diciamo che la cifra di riferimento è effettivamente quella. Poi adesso dire in linea generale quel netto a quale imponibile corrisponde è un po' più complicato, perché bisognerebbe andare ad analizzare. Dipende anche, la certi contratti reddituale, ovvio. Senta, Rotaporta, una curiosità: si è detto nei giorni scorsi, lo ha proprio detto Renzi nel corso della sua conferenza stampa, che l'intervento tecnicamente non poteva essere fatto partire prima, perché lui auspicava in verità di farlo in aprile, perché i CED non ce l'avrebbero fatta. Cosa sono questi centri di elaborazione dati a cui ha fatto riferimento il Premier? Ma qui io devo tirare un po' di acqua al mulino dei consulenti del lavoro. C'è stato un tweet della mia presidente Marina Calderone, che ha detto: attenzione, 7 milioni di buste paga le facciamo noi consulenti del lavoro. Nel senso, a parte le battute, noi consulenti, ma così come anche i centri di elaborazione dati, siamo quelli che materialmente facciamo i cedolini. No? Quindi è vero che non ce l'avreste fatta per aprile, voi e i CED? Per aprile diciamo che era un po' complicato, perché comunque si tratta di adeguare tutti i sistemi software, anche se negli ultimi anni soprattutto siamo stati abituati agli adempimenti dell'ultimo minuto, quindi però effettivamente diventava un po' complesso. Ecco, sì. 3x5, 25, 6x3, 33, 2x8, 48, 3x9, 29, 6+2, 42. Beh, oggi stiamo facendo un po' i calcoli su quello che sarà la nuova busta paga, ma con il dottor Carlo Gargiulo, medico di famiglia, che ci raggiungerà a partire dalle 11:40, quindi tra una ventina di minuti. Continueremo a parlare di numeri, ma lo faremo dal punto di vista del cuore. Infatti impareremo a leggere la busta paga del nostro stile di vita. Stipendio fisso, straordinari e scatti di anzianità sono le tre parole chiave che abbiamo individuato. Infatti possiamo paragonare lo stipendio fisso alla nostra pressione, che è una costante della nostra vita, anche se a volte varia nel corso anche della giornata. Raccontateci qual è il vostro valore e quante volte l'ha misurato, o se l'avete mai misurata. Poi gli straordinari possiamo paragonarli alla glicemia e al colesterolo, perché indicano gli straordinari che facciamo a tavola oppure quelli che non facciamo per l'attività fisica. E infine, con gli scatti di anzianità, parleremo dell'aumento di peso e anche del nostro giro vita. Allora, che la parola hanno... anzianità e peso, mi hai guardato e ti sei messa a ridere. Ma per non quale è vero, motivo? Ma non è vero, perché penso a me. Perché anno dopo anno il giro vita diventa sempre più morbido. Anche Filippo Aureggi, che regia la parte più tecnica, quadrato. Lo sa e non vuole sentirne parlare, ma noi parleremo anche del giro vita di Filippo Aureggi, oltre che naturalmente di quello mio, di Deborah, e del vostro. Se vorrete intervenire all'800 24 00 24, insomma, parleremo di questa busta paga dello stile di vita che mi è piaciuta molto, guarda. Perfetto. Tra l'altro è ovvio che gli ascoltatori possono continuare ad utilizzare il numero verde anche per capire qualcosa in più, anche se oltre che una slide non abbiamo, su questi 80 euro di bonus che troveranno determinate categorie di lavoratori a partire dal prossimo maggio. Tra l'altro, Alessandro Rottaporta, anche ai tempi del governo Letta, sembrano ormai passati i secoli, si era parlato di un bonus un po' più misero, da 14 euro al mese. Erano poi arrivati questi soldi e come si combinano con la nuova detrazione da 80 euro? Ma il governo Letta, in occasione della legge di stabilità 2014, aveva ritoccato alcuni importi relativi alle detrazioni, quindi effettivamente un piccolissimo sconto, misura veramente minima, c'era stato. Qui anche qui sono state toccate alcune voci, quindi generalizzare non è molto semplice, ma qualcosina c'era stato. L'aumento delle detrazioni che sarà probabilmente disposto con questo provvedimento di cui parlavamo prima, che attendiamo tutti, comunque si andrà a sommare rispetto a quello che è già stato fatto, quindi conviveranno insieme, ecco, le due misure. Senta, Rottaporta, no, questa subito, magari la facciamo perché mi ha incuriosito, scritta a caratteri cubitali, poi mi dice quello che ti fa ridere di messaggio. Nicoletta, Simona da Firenze chiede se gli 80 euro spettano anche agli apprendisti, che prendono evidentemente uno stipendio molto inferiore ai livelli di cui stiamo parlando. Rottaporta. Sicuramente sì, perché parliamo non di particolari categorie professionali di lavoratori, ma stiamo parlando del reddito da lavoro dipendente, quindi se si prende una categoria di reddito, tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dalla loro qualifica, potranno godere dello sconto. Benissimo. 800240024, noi siamo molto contente perché Antonio ha scritto un messaggio dicendo che gli 80 euro li userà per portarci fuori a cena. Attenzione che noi maniamo, ecco, Antonio, quindi... non so se le conviene, però ci metteremo la nostra parte, magari metteremo un aggiuntino, noi perché siamo delle donne emancipate. Assolutamente, così andiamo a salutare Deborah che ci chiama da Roma. Sono circondata da Deborah, buongiorno. Oggi sei assediata, sì. Deborah, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Ci dica. Allora, io lavoro nel privato e sono un'impiegata, ho 46 anni, due figli e vedova. Il mio stipendio netto a gennaio era di 1.630. Dal primo febbraio sono in cassa integrazione da 40 ore settimanali a 20 ore settimanali. Ho preso il mio stipendio di febbraio, circa 1.100 euro netti in busta. Il datore di lavoro mi ha detto che l'integrazione dal 100% all'80% la differenza me la darà l'INPS. Però non arriverò più a prendere, certo, anche nonostante gli assegni familiari, i famosi 1.630, sarà un pochino meno. Quindi mi chiedevo se anch'io... può rientrare nel bonus, perché immagino che le farebbe molto comodo, no? Beh certo. Cara Monica, anche Alessandro Rottaporta, cosa possiamo dire? La risposta è positiva, quindi rientrerà e semmai, poi appunto vedremo nel dettaglio col provvedimento, ma semmai... potrebbe anche magari avere un vantaggio superiore a 80 euro, perché come dicevo prima la detrazione è legata al reddito, quindi all'imponibile fiscale, per cui ovviamente al diminuire del reddito il vantaggio della detrazione è più sensibile, quindi comunque avrà sicuramente lo sconto. Deborah è una mamma, Nicoletta, sì, quindi... E io mi chiedevo infatti, Rottaporta, se c'è qualche relazione con il nucleo familiare, il numero dei figli, insomma è un bonus personale quello di cui stiamo parlando o si tiene conto anche di altri aspetti? No, è un bonus personale perché sembra che si vada a toccare proprio le detrazioni che tecnicamente si chiamano per reddito di lavoro dipendente, quindi quelle personali, chiamiamole così. Poi ci sono tutte quelle legate agli eventuali carichi familiari, ma quelle sono indipendenti, quindi chi le ha oggi le avrà anche dopo questo provvedimento e non c'è un'interferenza tra loro, quindi se uno ha figli a carico, coniugi a carico o altre persone a carico, continueranno ad esserlo con le regole attualmente in vigore. Vorrei sottoporle un messaggio che è arrivato da un ascoltatore che non si firma, ma ci scrive: premio Nobel per la complicazione degli affari semplici alla burocrazia. Basterebbe cambiare le tabelle IRPEF come ha fatto Hollande in un giorno. Rottaporta, magari questo renderebbe la vita più facile anche a voi. Ma sì, però adesso magari può essere complesso perché effettivamente può sembrare complesso, ma in realtà non è così complesso, perché comunque si interviene su una componente che serve a determinare l'imposta, no? Cioè quindi che vada a battere l'imposta. È logico che fatto sull'aliquota fiscale avrebbe preso una platea molto più ampia e quindi probabilmente poi ci sarebbero stati problemi di copertura. Invece andare a modulare le detrazioni aumentandone l'importo va a toccare in modo diverso i contribuenti, quindi poi, probabilmente sarebbe stata una riforma fiscale questo, diciamo, di più ampia gittata, immagino, sì. Rotaporta, e penso che non si sarebbe potuta realizzare nei tempi in cui sta intervenendo Renzi su vari campi, ecco. Senta, no. Un'altra domanda, poi in realtà vedo che il tempo corre, dobbiamo andare ai mercati. L'IRPEF è la nostra l'imposta appunto sul reddito che paghiamo praticamente tutti, lavoratori dipendenti. Ci sono poi, oltre a questa, anche le addizionali IRPEF comunali e regionali. Visto che gli enti locali sono in difficoltà, non è che quest'anno rimoduleranno verso l'alto le addizionali appunto che impongono e magari ci scippano questi 80 euro in più in busta paga, Rotaporta, oppure le cose sono già fatte, quest'anno non succederà niente a livello di fiscalità di enti locali? Allora, sulle addizionali regionali e comunali le cose sono già fatte perché i lavoratori dipendenti in forma diciamo rateale, quindi in 11 rate a partire dalla busta paga di gennaio 2014, stanno già pagando le quote di addizionali regionali e comunali, quindi su questa partita qui non ci saranno interferenze. Semmai, se ci saranno degli aumenti di queste aliquote, sarà un effetto che il lavoratore dipendente vedrà poi nel corso del 2015, quindi il 2014 ormai rimarrà invariato. Però insomma che i comuni si accontentino della TASI che arriverà a giugno. Allora 800 24 00 24, abbiamo Angela da Roma e Simone dalla provincia di Ancona, che invitiamo ad ascoltare con noi i mercati, e torniamo subito dopo con le loro domande. A tra poco. Cuore e denari. Sento sempre delle gran formiche nelle gambe, nei piedi. Insomma, dottore mio, sono proprio una tiella vecchia. Sarà un fatto di circolazione, signora. Lo credo anch'io, veramente ho avuto sempre la pressione bassa. Sì. Quant'è? Aspetti. Sentiamolo. 120, signora. È un po' bassa, dovrei avere 130, 140. Chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Meglio bassa che alta, no? Ed eccoci tornati insieme ad Angela, Simone, Daniela, Aziz, che si è aggiunto ora, 800 24 00 24. Parliamo di busta paga sia dal punto di vista dei denari, con tutte le novità che arrivano dal governo Renzi, ma anche dal punto di vista del cuore, perché c'è una busta paga anche del nostro stile di vita. Ne parleremo tra pochissimo, e nella nostra busta paga della salute una voce molto importante è proprio quella della pressione, una costante. Voi ve la siete misurata di recente? La misurate con regolarità? La state trattando? Siete cioè in terapia antipertensiva? 800 24 00 24. Ci raggiungerà tra poco il dottor Carlo Gargiulo, con cui parleremo anche di altre voci della busta paga del nostro stile di vita, come il colesterolo, la glicemia, e anche di quelli che abbiamo raccontato come scatti di anzianità, il centimetri del nostro giro vita che aumentano purtroppo con gli anni. Allora sì, andiamo ai nostri ascoltatori e risalutiamo di nuovo il nostro consulente del lavoro che ci accompagna in queste prime notizie che abbiamo sul bonus da 80 euro che molti lavoratori dovrebbero ricevere nella busta paga di maggio. Abbiamo molti ascoltatori, se mi permetti però Nicoletta, c'è Simone della provincia di Vicenza, che è un ascoltatore che ci ha scritto una mail molto articolata questa mattina presto all'indirizzo di Cuore Denari, e siccome ci poneva un tema interessante andiamo. Abbiamo deciso di richiamarlo. Simone, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Siccome a voi. Il suo tema è molto complesso, le chiedo il dono della sintesi di esprimerlo al meglio in questo momento. Grazie. Farò del meglio. Grazie. Nell'ultima pagina, mi risulta, del piano Renzi Jobs Act, c'è una norma in cui si vuol togliere la detrazione coniuge a carico. In particolare viene scritto nel punto C punto dell'ultima pagina di abolire detrazione coniugi a carico e introdurre il tax credit. Allora, tenuto conto che sono circa 5 milioni i lavoratori che oggi hanno una detrazione in media di circa 700-900 euro annui per coniugi a carico, voi capite bene che se io dico a gran voce che do questi 1000 euro ipotetici a queste persone e poi ne tolgo 800 perché non do più la detrazione per il coniugi a carico, la cosa mi sembra un po'... Grazie Simone, abbiamo capito. Allora, il Jobs Act è stato bravissimo. È stato molto bravo, infatti, sintesi. L'avevo un po' terrorizzato. Però ecco, Jobs Act è una cosa, i provvedimenti varati e comunque decisi Alessandro Rottaporta la settimana scorsa nella conferenza stampa con le slide sono due binari diversi. Noi intanto credo che gli 80 euro partiranno. Qualora dovesse essere stabilita, anche definita, questa abolizione della detrazione per la moglie a carico, secondo lei appunto avverrà questa compensazione in negativo delle due voci? Ma guardi, generalizzare è veramente difficile. Qui appunto stiamo parlando di una delega che quindi avrà un'attuazione molto lunga e poi bisognerà vedere appunto anche quale sarà il risultato finale. Tra l'altro nel punto che leggeva l'ascoltatore si parla anche, almeno così si dovrebbe intendere, che questa misura, quindi la sostituzione della detrazione con una nuova compensazione, quindi un tax credit, dovrebbe riguardare quella fascia che si trova al di sotto di una determinata soglia di reddito, quindi forse è un po' complesso dirlo oggi, cioè bisognerà vedere sicuramente l'evoluzione. Certo. Questa segue un binario, questo bonus, che dicevamo è legato alle detrazioni personali, quindi non va a incidere con i carichi familiari. Quello che sarà l'evoluzione di una delega, su cui oggi abbiamo appunto pochi punti, è veramente difficile. Certo. da stabilire. Detto questo, Simone ha fatto bene a sollevare il problema, quindi monitoriamolo, perché se ci fosse effettivamente anche un'iniziativa di questo tipo bisognerà che venga, come dire, monitorata attentamente e magari smontargliela al Premier Renzi in maniera corretta. Sì. Andiamo a sentire i nostri ascoltatori. Sì. Daniela ci chiama dalla provincia di Venezia, 800 24 00 24. Buongiorno Daniela, benvenuta. Daniela, salve. Buongiorno Deborah, buongiorno Nicoletta. Eccoci qua, Daniela. Io ponevo questa domanda. Si parla sempre di lavoratori dipendenti per quanto riguarda questo bonus, ma guarda anche noi pensionati? Alessandro Rottaporta. Sì. Niente finora. Grazie, infatti. Allora, diciamo che intervenire sul lavoro dipendente proprio con la rimodulazione dell'IRPEF o delle detrazioni deduzioni è più semplice, no? Però chiaramente potrebbe essere molto semplice anche sui redditi degli pensionati, Rottaporta, ma non mi pare che ci sia. No, la parola pensionati non figura in nessuna delle slide nell'ambito di questa misura, quindi a meno di evoluzioni in senso diverso, ad oggi le notizie non ci includono anche la categoria dei pensionati nell'ambito di questo bonus. Esatto. Le leggo un po' di sms. Vai. Che arrivano riguardo alle categorie dipendenti statali, ci scrive un ascoltatore, rientrano? Certo, sì. Mentre certo. Colf e badanti, a cui abbiamo dedicato proprio una puntata. Certo, se hanno un contratto regolare di lavoro. Le colf è un po' più particolare il discorso, perché il datore di lavoro non è sostituto d'imposta, quindi come funziona? Funziona che il datore di lavoro rilascia annualmente una dichiarazione con gli stipendi che ha corrisposto e poi semmai potrà godere di queste agevolazioni in sede di dichiarazione dei redditi, ma non vedranno l'effetto sulla busta paga, perché il datore di lavoro non trattiene l'IRPEF come fanno per la generalità fabbriche, dei eccetera. Un'altra domandina, dottor Rottaporta, arriva da Massimiliano da Bergamo: valgono anche per contratti cooperativi o contratti a tempo indeterminato? Sì, come dicevo prima non c'è una distinzione di settore o di categoria professionale, ma riguarderà tutti i lavoratori dipendenti, quindi statali, privati, al di là del settore sia industriale, artigianale o del contratto collettivo applicato. E anche per chi lavora part-time? E anche per chi lavora part-time, certo. Perfetto. Simone dalla provincia di Ancona, eccoci a lei, rapido, grazie, così diamo più spazio possibile a tutti. Sì. Buongiorno a tutti. Allora, la mia domanda... così ve la formulo in questi termini. Allora, la mia RAE è di circa 24.000 euro, concorre però un'indennità di reperibilità, e quest'anno l'azienda ha attivato un contratto di solidarietà. Quindi in busta paga al netto al mese, Simone, quanto le arriva? È variabile, può andare sopra e sotto i 1.500, questo è il punto. Esatto. Quindi volevo sapere quali sono le voci che concorrono eventualmente a formare l'imponibile sul quale calcolare questa riduzione di detrazione. Rotta porta. Ma allora, l'indennità di reperibilità rientra nell'imponibile e comunque anche l'integrazione derivante dal contratto di solidarietà entra anche quella lì, entra anche quella voce nel reddito. Come dicevamo per un caso esposto in precedenza, comunque sia, anche se il netto che deriva da questo imponibile è inferiore a 1.500, ovviamente ci sarà il bonus, semmai magari con un effetto addirittura più positivo in termini numerici rispetto agli 80 euro, quindi magari potrà essere 90. Certo. No, tra l'altro, rotta porta, allora, ammettendo che io sono sotto i 1.500 euro per pochi euro fino a luglio o agosto, a settembre mi scatta un gradino di anzianità e supero questa soglia, si blocca automaticamente secondo lei il bonus? Come funziona? Chi appunto elabora la busta paga cosa fa? Prende a inizio anno, calcola un reddito presunto per l'anno in corso e su quello va a applicare gli scaglioni di imposta e le detrazioni che sono quelle che ci sono. Quindi nel reddito presunto ci dovrebbe essere anche teoricamente lo scatto fissato in un determinato punto dell'anno, no? Ci possono essere degli elementi che giungono in corso d'anno che quindi non possono essere preventivati a priori. Gli effetti di questi elementi che si vanno ad aggiungere, pensiamo magari a voci di straordinario che non sono preventivabili, o come il caso del lavoratore l'indennità di reperibilità, non so a gennaio quale sarà l'ammontare poi a fine anno di questa indennità, questi importi che si aggiungono al presunto, al reddito presunto, vanno poi aggiustati in sede di conguaglio fiscale che nella normalità avviene a dicembre, certo. Quindi col conguaglio fiscale ci saranno poi gli aggiustamenti. Allora, noi purtroppo dobbiamo chiudere questa parte, però io vi dico subito che potete scriverci tutte le mail che vorrete all'800 24 00 24, continuate a chiamare all'indirizzo cuoredenari@radio24.it, perché Alessandro Rottaporta ci dà sempre una gran mano ad aiutare appunto a chiarire questi aspetti un po' complessi ai nostri ascoltatori. Per gli incapienti, Rottaporta, come funzionerà? Beh, gli incapienti che hanno una tassazione molto bassa, praticamente addirittura qualche volta nulla. È un nodo che andrà sciolto perché altrimenti non vedranno nessun effetto. Certo. Sono tutte quelle situazioni dove le detrazioni superano l'imposta e quindi anche aumentandola non avranno nessun, cioè salvo interventi particolari non avranno nessun vantaggio. Sì, allora Nicoletta, facciamo sentire Aziz? Sì. Aziz era in attesa da un pochino. Allora portiamolo con noi a sentire le informazioni. Informazioni sul traffico. Benissimo. Riusciamo poi rapidissimo. Sì, perfetto. Ci segua. Cuore e denari. Eccoci qua, siamo tornati insieme e come promesso abbiamo Aziz che ci chiama da Milano. L'ultima domanda per Alessandro Rottaporta sul famoso bonus da 80 euro in busta paga da maggio. Aziz, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta e buongiorno Deborah. Sì. Complimenti per la vostra trasmissione, veramente seguirvi è un piacere. Meno male che vedi, l'abbiamo fatto intervenire, se no questi complimenti. Chi se li prendeva? Non l'abbiamo neanche chiesti, proprio arrivano gratis. Aziz, buongiorno. Grazie anche ai vostri ospiti, veramente complimenti per tutto. Sentite, allora la mia domanda è questa. Io da fine gennaio la ditta ha chiuso, cioè a fine gennaio mi trovo a casa. Voglio sapere se faccio parte di questi famosi 80 euro mensili. Lei prende una disoccupazione, no Aziz, da quello che capisco? Per il momento sì, sono iscritto, ancora non mi è arrivato niente, però c'è tutto a posto, sono iscritto, ma hanno risposto che la domanda è stata accettata. E voglio aggiungere che ho mia moglie e mio figlio a carico. Grazie. Voglio sapere se faccio parte di questi cose. Ecco. Aziz, a pressione come stiamo? Come? Con la pressione come stiamo invece? La prova, la misura ogni tanto? Dico, va tutto bene, tengo tutto sotto controllo, le analisi, la pressione, tutto per il momento. Bravo, bravo, senti come vivace Aziz, come attento, bravissimo, grazie. Un saluto alla sua famiglia, anche Alessandro Rottaporta. ma immagino che il lavoratore stia prendendo un sussidio, quindi disoccupazione. Sì. In questo caso sarà l'INPS invece, cioè in virtù di sostituto d'imposta, che erogando questa ASPI, questa disoccupazione, andrà ad applicare le detrazioni e quindi anche i nuovi importi che saranno determinati con questo provvedimento del governo Renzi. Abbiamo spremuto abbastanza, a sufficienza, Alessandro Rotaporta questa mattina. Magari gli è salita anche un po' la pressione. No, adesso fa un po' di respirazione. Vive in un posto meraviglioso, è impossibile che gli salga, guarda, te lo posso assicurare. Grazie, Rotaporta, buona giornata. Grazie, buongiorno. Che ti prende? Non posso. Come sarebbe? È una pizza margherita a Napoli, è un imperativo morale mangiare e goderti la pizza. Vorrei, ma tipo 5-6 chili in più. E li ho messi tutti qui, sulla pancia, come si dice? Qual è la parola più adatta? Una ciambella. Magari i numeri della vostra pressione non li conoscete, non li ricordate, non li avete misurati di recente, però il giro vita è sotto i nostri occhi, a portata di mano, no, di centimetro, quindi non ci sono più scuse, misuratevi e chiamateci, 800 24 00 24, è arrivato il tempo di parlare della busta paga del nostro stile di vita e lo facciamo insieme a un grande amico di Cuore Denari, il dottor Carlo Gargiulo, medico di famiglia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Nicoletta, buongiorno Deborah. Buongiorno. Ci risentiamo. In effetti, perché lui ci sta un po' trascurando. Ogni tanto riuscivamo a catturarlo, blindandolo qua negli studi di Radio 24 adesso in Via Monterosa. È inafferrabile, è diventato sfuggente, ma noi invece stamattina l'abbiamo riacchiappato ed eccolo qua che ci fa subito un bel esame della nostra condizione. E parleremo, dottor Gargiulo, lei si divertirà perché lei che tiene sotto controllo gli esami del sangue dei suoi pazienti, sicuramente non le sarà mai capitato di parlare della busta paga del nostro stile di vita, dica la verità. No, questa veramente mi mancava, per cui ormai con Nicoletta io non mi meraviglio più di niente, credo che Deborah contribuisca a sorprendermi, perfetto, andiamo a vedere questa busta paga. Allora, dottor Gargiulo, intanto abbiamo già gli ascoltatori che quando hanno sentito dottor Gargiulo hanno detto aspetta va che chiamo all'800 24 0024, perché lei richiama, li attira un po' come le mosche sul miele. Beh. Ma noi abbiamo tre domande, tre input, voci che vogliamo di cui vogliamo parlare nel corso del nostro incontro e sono pressione, colesterolo e glicemia e girovita. In realtà queste le abbiamo abbinate alle nostre tre parole chiave, il fisso, gli straordinari, gli scatti di anzianità. Ci racconta come siamo arrivati a questa lettura incrociata? Beh, dunque, da questa lettura ci si può arrivare abbastanza bene, direi che avete centrato perfettamente, perché allora partiamo dal primo, dalla pressione che potrebbe essere considerato il fisso, nel senso che la pressione è quella che viene in parte geneticamente determinata, in parte collegata allo stile di vita e quindi rappresenta una costante. Il paradosso è che quando misuriamo la pressione in realtà noi troviamo valori sempre diversi, quindi questa non sarebbe una costante ma è sempre presente e bisogna sempre prestare attenzione al fatto che non aumenti, quindi che il suo valore massimo non superi i 135, il suo valore minimo non superi gli 85, appena di far scattare se no dei meccanismi di allarme che ci devono riportare a questi valori normali. Quindi direi che questo fisso, questa costante della nostra vita, dobbiamo tenerla d'occhio facilmente ogni volta che andiamo dal medico o magari in farmacia, possiamo tenere d'occhio la nostra pressione e regolarci bene su quello che dobbiamo fare e come dobbiamo vivere. Il secondo elemento, che è colesterolo e glicemia, qua abbiamo una doppia valutazione, nel senso che siccome sono esami del sangue, noi li faremo sì ogni tanto, però a differenza del colesterolo, che è un esame che non risente di variazioni giornaliere, ma di variazioni più a lungo termine dello stile di vita e danneggia a lungo termine, la glicemia ahimè risente anche delle variazioni giornaliere. Quindi se noi la sera abbiamo mangiato un po' troppo, quando andremo la mattina dopo a fare i nostri esami del sangue, troveremo una glicemia più alta, ma che non è un valore vero, è un valore falsato da un disordine di una sera. Quindi anche lì bisognerà stare un po' più attenti. A direi fare gli straordinari. Esatto, direi che è quasi uno straordinario, quindi attenzione, perché l'ordinario poi, se questa glicemia è troppo alta, lo valutiamo con un secondo esame che si chiama emoglobina glicata, che è la media delle glicemie degli ultimi 3 mesi, quindi possiamo con quello capire che cosa stiamo facendo, come ci stiamo conducendo nel nostro stile di vita. Poi abbiamo il terzo elemento, sì, che sono gli scatti d'anzianità veri, sì, e propri, e cioè quel giro vita. Sì. Che è vero, che però con gli anni tende ad aumentare. Esattamente, con gli anni tende ad aumentare, ma non perché fisiologicamente cambi, tende ad aumentare perché diventiamo un po' più pigri, perché magari facciamo un po' meno attività fisica, perché non troviamo i tempi giusti per rispettare il nostro organismo, perché indulgiamo un po' di più su quella che è il buon mangiare, il buon cibo. Insomma, se una serata da giovani divertente, la serata in cui si esce con gli amici e si va a ballare, la serata quando si ha la mia età divertente è quella in cui si sceglie il buon ristorante e si va a cena. Ecco, è vero, magari cerchiamo di trovare un'intesa anche da questo punto di vista. Cerchiamo di andare a ballare, dottor Gargiulo, anche noi. Bravissima, che quello dice? Ci farebbe benissimo. Ecco. Allora, noi tante volte non ci rendiamo conto dei chili che ci portiamo addosso e accumuliamo nel tempo. Basta pensare alla taglia che portavamo quando avevamo 18 anni. Ecco, confrontatela con quella che portate adesso e facciamo una riflessione a voce alta. Allora, che premio ho vinto? Perché la mia è nettamente migliore. Brava. Un libro della libreria di Denari. Mi automando un bel libro sulle tasse. Andiamo ai nostri ascoltatori, certo. Deborah, chi scegliamo? Allora, intanto subito Katia su Facebook, perché quelli di Facebook i nostri amici li trascuriamo un po'. Buongiorno donne, scrive, pressione ok, glicemia e colesterolo ok, giro vita 98, anni 43, lavoratrice, peso 67,7 kg, altezza 1,67 m, tutto ok? La dieta dice dovrei, ma... Dottor Gargiulo, qua prendiamo allora, le misure. Ahimè, un giro vita superiore mi sembra di circa 10 centimetri rispetto al limite massimo, 88 dovrebbe essere, 98 se non ho capito male, sì. Quindi 10 centimetri di grasso cattivo, di grasso che può danneggiare seriamente l'organismo, e secondo me abbiamo anche 5 kg di sovrappeso almeno, perché vista a giudicare dall'altezza e dal peso è chiaro che è una valutazione molto neanche a occhio, certo, neanche a occhio, a orecchio, ma noi ma se volete parlare della busta paga del vostro stile di vita, ci ritroviamo subito dopo il Cristiano GR. E Alberto, pazienza, tra poco. Cuore e denari. Le sue analisi, per favore, grazie. Molto gentile. Bellissime. Stupende. Azotemia magnifica, glicemia eccezionale, colesterolo delicatissimo, trigliceridi fantastici, urine meravigliose. Complimenti. Grazie. Prego. Dottor Gargiulo, intanto, ribuongiorno. Lei riuscirebbe a essere così poetico? Cioè, il colesterolo delicato... Proprio no, ma con tutta la buona volontà è difficile essere così poetici con le analisi che vedo io. Allora, eccoci tornati insieme dopo le novità di Denari sulla busta paga. Noi stiamo imparando insieme al dottor Gargiulo a leggere la busta paga del nostro stile di vita. Pressione, colesterolo, glicemia e giro vita. Cristiano, buongiorno, ci chiama da Vicenza, 800 24 00 24. E apro, chiudo rapidamente una parentesi, il tempo è poco, le domande sono tante, quindi daremo spazio alle vostre domande in modo da permettere al dottor Gargiulo di dare una valutazione che non è una diagnosi e anche, là dove è possibile, una indicazione per correggere un po' il nostro stile di vita. Basta, a volte proprio piccoli cambiamenti nel quotidiano sono in grado di produrre grandi effetti sulla nostra salute. Cristiano, eccoci qua. Salve, buongiorno. Io volevo portare le mie esperienze per quanto riguarda la pressione che porto io. Sì. Io ho sempre portato una minima attorno a 100-105 e una massima sui 150. Poi, quando se ne è accorto il medico, in età adulta, mi ha dato delle pastiglie. Sì. Però non mi sono trovato bene con queste pastiglie, mi davano degli effetti collaterali, disturbi, eccetera. Cosa le facevano queste pastiglie, Cristiano? Che noi non accettiamo, perché il dottor Gargiulo me lo confermerà, la pillolina per la pressione, insomma, non ci va giù. Perché dietro quella pillolina della pressione noi leggiamo tante cose. Quali erano i disturbi che Cristiano le procurava questa terapia antipertensiva? Diventavo più lento e pigro. Lento e pigro? Oh, per sì. carità. Allora lei cosa ha detto, Cristiano? Sai che cosa ti dico? Che la butto alle ortiche. Ha fatto così? Sì, esattamente. E come così. Sta? Io sto bene. Ieri mi sono misurato la minima era 105. La massima 148. Io sto da Dio, per me questo 85 è una fantasia. Come il livello del colesterolo, che ogni tanto si riuniscono per stabilire quello che quindi è. Cristiano, lei non ci crede, dottor Gargiulo. Cristiano racconta una cosa abbastanza comune, no? Ascoltatori. Si ritrova abbastanza spesso. In realtà dobbiamo partire da un presupposto: la pressione alta non dà sintomi. Se noi aspettiamo il mal di testa, i giramenti, le vertigini, il sangue dal naso per curare la pressione, sbagliamo completamente, perché la pressione non dà sintomi. Il 105 del nostro amico ovviamente non gli dà nessun sintomo, ma anzi lo fa star meglio da un certo punto di vista, perché il sangue circola più velocemente, il sangue arriva meglio, quindi a lui sembra di star meglio, e quando prende l'antipertensivo rallenta un po' tutto perché si abbassa la pressione. Probabilmente l'antipertensivo che gli ha dato il collega era un pochino drastico, un po' troppo brusco nell'abbassare la pressione, che invece in chi ha una pressione minima alta come questa del nostro amico per tanto tempo deve essere abbassato con più gradualità. Non dimentichiamoci che questa favola del fatto che ci si riunisca per stabilire che il colesterolo deve essere più basso, che la pressione deve essere più bassa, dipende solo dal fatto che noi abbiamo finalmente dei dati obiettivi, cioè noi anno per anno vediamo quante persone con quei valori di pressione muoiono di infarto, quante persone con quel colesterolo muoiono di infarto, e cerchiamo di stabilire, sempre con quello che può essere una prospettiva legata alla statistica, di stabilire quale pressione sarebbe ottimale per vivere più a lungo. È chiaro che è una statistica questa, quindi è un rischio che non possiamo determinare con sicurezza. Cioè, io sono sicuro che se un mio paziente ha la polmonite può morire, ma se un mio paziente ha la pressione alta non so in quanto tempo potrà avere dei problemi, e soprattutto quali saranno questi problemi. Però so che se gliela abbasso sicuro non faccio del male, e allora a quel punto bisogna intervenire, eventualmente scegliendo il farmaco più adatto per lo stile di vita del paziente. E correggere anche lo stile di vita può essere un aiuto per far rientrare la pressione, che va alterata di poco, nei valori ottimali. Dottor Gargiulo, mi riferisco all'attività fisica, ripetiamo un po' le stesse cose che su cui voi medici insistete, ma su cui c'è evidenza scientifica: l'attività sportiva, così come la riduzione del sale e anche una dieta equilibrata, hanno dei benefici effetti sulla riduzione pressoria, è così? Assolutamente d'accordo da tutti i punti di vista. Io mi ero sbilanciato sulla terapia, perché il certo, parlava di terapia, parlava di certo. medicina, però il presupposto alla terapia è lo stile di vita, e a volte è sufficiente quello senza prendere farmaci. Alberto ci chiama da Cagliari, ha forse un problema inverso, al contrario, infatti. Che, di cui parliamo troppo poco, ma che può dare anche dei problemi non a livello della salute, ma proprio come gestione della quotidianità. Tra l'altro pensavo che colpisse prevalentemente le donne un problema di questo tipo, e invece è trasversale, visto? Alberto buongiorno. Buongiorno Nicoletta e Debora, un saluto al dottor Gargiulo dalla calda assolata a Cagliari. Bravo. Oggi è una giornata bellissima e calda. Che invidia. Vi seguo sempre, siete un programma interessantissimissimo. Grazie Alberto. E niente. Eccoci qua. Veniamo a noi. Allora, 1,78 di altezza per 60 kg di peso. Magrone. Io ho sempre la pressione bassa, 100 su 60, d'estate addirittura nel 2003, quando ci furono quei picchi di 47 gradi, sono arrivato ad avere 80 su 60, e questo mi dà dei problemi, perché mi sento sempre fiacco, debole. Certo, lo so bene anch'io, però è quella, quindi è la malattia di chi non muore mai, dicono. Dottor Gargiulo, io e Alberto quindi siamo a posto. Sì, soprattutto il povero Alberto sentirà dire al suo medico: no, ma stia tranquillo, con la pressione così bassa lei è fortunato. In realtà è vero che chi ha una pressione bassa abbia dei problemi, e che sono anche problemi importanti, perché è difficile alzarsi dal letto qualche volta la mattina, perché se uno si alza bruscamente da una poltrona può avere una vertigine, un giramento di testa, quindi è chiaro che questo è molto fastidioso. In realtà noi non abbiamo medicine per la pressione bassa, cioè non lo utilizziamo se non in situazioni molto particolari. Il consiglio che in genere do io ai miei pazienti con la pressione bassa è un pochino più di sale negli alimenti, quindi avere degli alimenti che siano un po' più ricchi, utilizzare degli integratori salini, perché anche quelli possono aiutare ad aumentare leggermente la pressione, portarla un po' più a livello e quindi consentire un migliore qualità della vita. Ancora alcuni accorgimenti: non vi alzate mai bruscamente dal letto, ma sempre seduti prima sul letto e poi in piedi, non cambiate posizione, ad esempio se vi dovete inchinare, mai inchinarvi con la testa in avanti per poi rialzarvi, mai inchinarsi sulle ginocchia, questo andrebbe bene per tutti e in particolare per chi ha la pressione bassa. Altri accorgimenti non ce ne sono. Consolazione di vivere più a lungo, beh sì, non è poco. Ci farei la firma. Tra l'altro, dottor Gargiulo, prima di passare agli altri due indicatori, al colesterolo e alla glicemia, vorrei ricordare uno studio dei ricercatori del Massachusetts General Hospital di Boston, che suggerisce di misurare la pressione da entrambe le braccia, perché il valore che abbiamo è più preciso. Lei che è d'accordo, dottor Gargiulo? Non è una novità, da sempre sul paziente la prima volta che si misura la pressione si misura su tutte e due le braccia. Io ho visto il lavoro, i ricercatori parlano di una differenza di 10 mm di mercurio come differenza significativa per quale indicatore di malattia. Le dico che non sono assolutamente d'accordo. Non secondo siamo me d'accordo. I 10 mm di mercurio possono essere anche una variazione strumentale che non ci dà un'indicazione. Se è più di 10, noi ragionavamo dai 15 in su, allora dovevamo pensare ad un'alterazione legata magari alle arterie di un braccio rispetto all'altro. E poi un'altra misurazione estremamente importante è la misurazione braccio-gamba. Anche quella va fatta nel paziente che viene per la prima volta a misurare la pressione, e quello è un grosso indicatore di patologia. C'è un'ora ideale per misurare la pressione, che sappiamo ha delle variazioni fisiologiche nel corso della giornata? Sappiamo che c'è l'ora della febbre intorno alle 5 del pomeriggio. C'è anche un momento in cui, per chi ad esempio è sotto terapia antipertensiva, è bene controllare la pressione? Non ho capito. Per chi è in terapia antipertensiva deve controllare la pressione? Ha un'ora indicata per farlo oppure qualunque ora va bene? No, va bene qualunque ora, perché come dicevo, in qualunque ora della giornata non deve superare i limiti che stabiliti da quelli che sono le statistiche. Quindi 135-85 dovrebbero essere gli stessi la mattina, il pomeriggio e la sera. Andiamo agli ascoltatori. Volentieri. Allora, pescherei, se sei d'accordo, Fabrizio da Prato, perché lui fa riferimento, adesso lo sentiremo, ad un alimento specifico, ma ci sono tanti sms di ascoltatori che chiedono: questo alimento fa male al colesterolo, questo alimento fa male ai trigliceridi. Io, se non ho e capito noi che male, cosa cioè, abbiamo imparato invece? Che bisogna variare l'alimentazione, che non bisogna eccedere in nulla, perché anche mangiarsi 18 mele al giorno, immagino che sicuramente non è la stessa cosa di mangiarsi 18 kg di cioccolato, ma cioè, non è che si vero voglia. Toppare, una mela al giorno le va al medico di torno, non è che se ne mangiamo 18 siamo bene per l'ospedale. Tutta la vita, quindi insomma usiamo un po' di moderazione in tutto e ci possiamo godere la vita. Fabrizio è un golosone. Buongiorno. Sì, salve. Eccoci. Buongiorno lei. A voi. Buongiorno. Niente, io visto che ho appena finito di riparare una macchina per il cioccolato, mi fa una gola tremenda perché è un fiume di cioccolato continuo. Comunque, a prescindere da quello. Ma questo è il suo lavoro di tutti i giorni, Fabrizio? Ripara macchinari di questo tipo? Purtroppo lavoro con panifici, pasticcerie, cioccolaterie, eccetera. Che... E sicché lo sono leggermente sovrappeso. Certo, perché non è che la pagano con, cioè si fa pagare normalmente, non con i dolcetti. No, no, no, ecco. No. Però ho l'obbligo d'assaggio, ecco. Anche certo, perché sono certo. Molto permalosi. Ecco. Come quando si offrono il caffè, io viaggio su 10-12 caffè al giorno. È una cosa povero Fabrizio. Allora Fabrizio, la domanda è il cioccolato. La domanda è la cioccolata fondente, non mi ricordo se l'ho sentito da voi, è un ottimo livellatore per la pressione, visto che io ne soffro, ho un girovisa che ci vuole la terra metrica e soffro di pressione, di ipertensione arteriosa. Fabrizio, lei è troppo simpatico, dottor dico. Gargiulo. Beh, d'altra parte, con un lavoro così come si fa? Che disastro. Posto che Fabrizio soffre di una malattia professionale, che è quella del girovita deve aumentata, deve essere riconosciuta. Non si discute, bisognerebbe fare la richiesta all'INAIL per l'indennizzo, però in realtà lui deve stare attento a quel girovita, perché è quello che gli aumenta anche la pressione, che insieme alla pressione alta contribuisce ad aggredire il suo cuore. La cioccolata fondente in piccole quantità è un ottimo antiossidante, quindi va bene anche per ridurre i radicali liberi e quindi migliorare le condizioni del nostro organismo. L'effetto sulla pressione no, direi di no, perché in realtà la cioccolata contiene la teobromina, che è un prodotto che aumenta leggermente la pressione, quindi non utilizzerei il fondente per abbassare la pressione. Mentre che relazione c'è tra liquirizia e pressione? Ci scrive un ascoltatore, 800 24 00 24, potete ancora superare la barriera rosa per parlare non solo di liquirizia ma anche di glicemia, colesterolo e girovita. Dottor Gargiulo, la liquirizia sì la o no? La liquirizia ha un effetto diretto sulla pressione, però bisogna consumarla in quantità insomma abbastanza industriali, importanti, quindi non è la caramellina di liquirizia che può dare problemi. In ogni caso io agli ipertesi consiglio di non utilizzarla, magari di ricorrere a caramelle senza zucchero di altro tipo per evitare anche quella minima aggressione verso la pressione. Allora, Antonio ci scrive i valori del suo colesterolo. Sentiamo. E ce ne dà tre, perché noi parliamo del colesterolo genericamente, ma sappiamo che c'è un valore totale, quello buono e quello cattivo. Allora, lui ci dice valore totale 225, colesterolo buono 80, trigliceridi 55, chi ci capisce nulla? Dottor Gargiulo, è vero, quando noi proviamo a leggere gli esami del sangue, a volte tutti questi numeri creano un po' di confusione. Allora, vogliamo dare delle indicazioni semplici in modo che i nostri ascoltatori possano non farsi autodiagnosi ma capire un po' come sta andando il loro stile di vita, questi straordinari che nel caso del colesterolo arrivano, no, nella nostra busta paga o con un pochino più di ritardo, come possiamo valutarli? Allora, il colesterolo ormai siamo tutti d'accordo che in un soggetto normale, cioè non diabetico, deve avere un valore inferiore il totale a 200, quindi 200 è il limite alto. Sì. Però abbiamo anche una correzione, il nostro amico ci diceva che lui ha 80 di HDL, cioè di colesterolo buono. Sì. Ecco, teniamo presente che un colesterolo buono che normalmente deve essere sopra i 60 nell'uomo, se raggiunge valori più alti come in questo caso 80, ci può garantire un 5% in più di colesterolo totale. Allora invece di 200 possiamo anche prendere 210 come valore di riferimento per il massimo. 80 di HDL, 210 di totale, siamo in una condizione direi abbastanza buona. Lui ha 225, io starei un po' attento ai grassi animali, senza farmaci mi raccomando, un po' attento ai grassi animali, probabilmente la carne, le uova, il formaggio devono essere assunti ma con moderazione. E intanto senza alcun pudore tutti i nostri ascoltatori ci stanno dando la misura del loro girovita. Si mettono in mutande. Con grande coraggio, non ci mandate le foto per carità. Perché no? Le mettiamo su Facebook. Gian Pietro dalla provincia di Bergamo, le chiedo un minutino di pazienza perché leggerei anche la misurazione di un'ascoltatrice che ci ha scritto tantissimo e siccome è molto alta come me e ha un peso a cui io miro e ho questo obiettivo di arrivare entro l'estate, cara la mia Nicoletta, Lucia ci scrive, sono 1,70 m. Peso 66 kg, ho il girovita di 87 cm, 53 anni. Mi sembra in ottima forma questa signora, dottore. Vogliamo la foto, dottor Gargiulo, che dice? Beh, 87 cm di girovita è perfetto perché siamo sotto i famosi 88 che dicevamo prima, quindi va benissimo. E poi l'altezza? 1,79, 1,80 m. È come Deborah. È per alta. Un peso di? 66. È leggermente sottopeso secondo me, 66, dottore, lei 79. Oggi mi ha reso la giornata meravigliosa, vero dottor Gargiulo, perché troppo secche non ci piacciono. No, è perché poi mi ha svoltato la giornata, c'è un rischio osteoporotico leggermente aumentato, quindi ecco. Rimettere quell'uno o due chili in più, ovviamente non di grasso ma di massa muscolare, sarebbe perfetto. Sentiamo se possiamo dire la stessa cosa di Gianpietro da Bergamo. Gianpietro, rapidissimo, grazie. Allora, io ho 50 anni, ho un giro vita di 98, sono alto 1,72 m, peso 74 kg. Però non ho niente, non sono ammalato, non ho pressione alta, colesterolo perfetto. E il problema qual è? Scoppia di salute. Il problema qual sapere, è? Perché il mio dottore mi ha detto che il mio giro vita non è grasso, è muscolo floscio. Muscolo floscio. Ha perso l'addominale, no? Non so, a me mi sa con conto senso. Dottor Gargiulo, anche lei dice allora, così. Gli è svenuto il muscolo a Gianpietro. Diciamo così, dottor Gargiulo. Allora, se Gianpietro facesse un po' di addominali non sarebbe male, però 98 va benissimo come giro vita. Siamo sotto i 103, quindi va bene. Non ci sono dubbi da questo punto di vista. Altezza e peso sono leggermente sfasate, quel 74 su 1,72 diciamo che ho 5 kg sopra, ma non sono così importanti a 50 anni quei 5 kg, bisogna vedere anche dove sono sistemati, magari è di corporatura robusta e quindi li ha di muscoli. Che faccia una corsetta, li trasformi in muscoli. Quindi Gian Pietro promosso. Allora, noi avremmo voluto parlare di glicemia, però il tempo è tiranno. C'è un'altra puntata solo su quella. E quindi, dottor Gargiulo, lei deve venire qui in carne e ossa. E tutta la sua glicemia che sarà perfetta per tornare a parlare degli indicatori della nostra salute. Grazie. Grazie dottor Gargiulo. Ricordo solo rapidamente che da domani il Sole 24 Ore parte con una nuova iniziativa, i dizionari della vita pratica, 8 guide tematiche dalla A alla Z ogni martedì con il quotidiano, risposte concrete e chiarimenti sui problemi della vita quotidiana. Si comincia domani con il tuo condominio. E noi? Continuate a scrivere per Cuore, Denari e Vitali, ricordatevi. Ah già, sì, è vero. I nostri incipit, i vostri completamenti di racconti, e giovedì ritorneremo sull'argomento. Cuore e Denari.